L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta per raccontare l'Europa, le sue mille sfumature, le sue mille sfaccettature, l'Europa delle storie, delle persone, l'Europa che cammina, che cerca di costruirsi giorno per giorno. L'attualità politica ed economica viene seguita da Radio 24 e quotidianamente noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista con questo programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio, tante voci, tante lingue per raccontare una stessa Europa. Le coordinate per seguirci anche virtualmente sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24, oppure il mio account personale Federico Taddia, account che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio e oggi partiamo proprio con un viaggio, destinazione Bruxelles. Well, I'm changing all my strings, I'm gonna write another traveling song. About all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong. And a dream about a train that's gonna take me back where I belong. The European Dream, Road to Bruxelles, il sogno europeo, un viaggio dove viaggiare metaforicamente, ma non tanto, sono storie, sono persone, sono immagini, storie, persone, immagini che raccontano il viaggio di tanti migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Un viaggio che è partito il 17 giugno da Bari, una delle porte d'ingresso verso l'Europa, un viaggio che vuole arrivare fino al cuore, al Parlamento europeo. Un viaggio con un camion, un viaggio che ha ideato un fotografo che da anni dedica parte della sua attività proprio a raccontare storie di persone con che cercano di realizzare un sogno che quasi sempre la possibilità di un futuro. Diamo il benvenuto ad Alessandro Penso. Ciao Alessandro. Salve, salve, grazie. Come mai hai scelto un tir per fare questo viaggio? Un tir è un mezzo simbolico perché rappresenta per tantissimi di questi ragazzi una speranza, in quanto lo utilizzano in maniera illegale, entrando di nascosto in questi tir che sono diretti verso altri paesi europei dalla Grecia. Quindi è un mezzo di speranza, è un mezzo simbolico, è un mezzo per continuare il loro viaggio e che noi simbolicamente usiamo per portare le loro storie dove loro non possono arrivare, andare. Alessandro Penso, vincitore del WordPress Photo 2014 per la categoria General News, quale fotografia hai selezionato per questo viaggio? Allora, all'interno del camion ci sono delle foto di vita quotidiana di due gruppi di ragazzi, un gruppo di ragazzi dell'Afghanistan e un gruppo di ragazzi del Nord Africa, in quanto l'Afghanistan rappresenta una delle maggiori gruppi di rifugiati al mondo. In Nord Africa, perché durante lo svolgimento del mio lavoro c'erano le rivolte arabe e quindi cominciavano ad arrivare dei ragazzi molto giovani, delusi dei propri paesi per i cambiamenti e la poca libertà di espressione. Sono soltanto foto di vita quotidiana, perché c'è stata una scelta di non inserire all'interno del tir foto che raccontassero troppo le istituzioni, non so come... a carceri, CIE e via dicendo, in quanto arrivando nelle piazze il messaggio che noi vogliamo dare è soltanto quello di empatizzare, di ritornare a parlare di umanità, di mostrare la vita quotidiana di queste persone e in questo caso di questi ragazzi adolescenti, come vivono le giornate e quindi perché è il motivo di andare via. Poi ci sono delle foto un po' più forti che sono appunto i tentativi di questi ragazzi di andare via, quindi gruppi di ragazzi che corrono dietro dei camion, non di notte, nascosti nel porto dietro i recinti, fino ad arrivare una foto che rappresenta un attacco a sfondo razzista di una macchina che investe Mustafa, un ragazzo di 19 anni del Marocco, all'epoca di 19 anni. Tutto questo arriverà fino alla sede del Parlamento europeo, ancora appunto un luogo simbolo che rappresenta questo sogno europeo che tu riesci a sintetizzare in tutte queste storie che hai raccontato, con cui hai convissuto, perché ogni volta che c'è un fotografo che racconta una storia vuol dire che c'è comunque un approccio empatico, cioè lo stare insieme con queste persone. Cosa rappresenta per loro oggi il sogno europeo? Un'accoglienza felice rappresenta la possibilità di poter riniziare, di trovare un posto che gli dia uno start-up, gli dia la possibilità di avere un'istruzione, in questo caso perché parliamo di ragazzi giovani e quindi per crearsi un futuro, ma anche che semplicemente gli dia una casa. Il problema è che ogni paese europeo ha una sua regolamentazione e quindi in alcuni paesi la possibilità di avere un'accoglienza felice è maggiore e quindi questi ragazzi adesso hanno capito che l'arrivo per loro dell'Europa non sono i paesi del Mediterraneo, le porte, ma sono i paesi del nord Europa. Una lingua comune, un capirsi anche al di là delle differenze tra le varie nazioni, i vari stati membri dell'Unione Europea. Una fotografia questa ce la fa, nel senso che l'immagine racconta più di mille parole ed è questo anche un po' il cuore del tuo lavoro, credo. Sì, l'idea è un pochettino, come dire, mostrare, smascherare quelle che sono le conseguenze di queste leggi, come dire. Ci sono delle leggi, c'è la Dublino 2 che dà la possibilità in Europa di chiedere l'asilo politico e poi il paese che trova il migrante nel proprio territorio è il paese che se ne farà carico e che deciderà. Ma questo poi succede che in differenti paesi ci sono storie diverse e quindi noi mostriamo poi, in questo caso, la Grecia, che vita sostengono questi ragazzi ed alcuni giovanissimi. Quindi io credo, la nostra idea è di andare nelle piazze, perché è un percorso studiato, in quanto tocchiamo città come Bari Ancona, perché sono città portuali, quindi dove questi ragazzi cercano di arrivare. Quindi noi siamo coinvolti in questa storia, perché certo, tantissimi di questi ragazzi arrivano in queste nostre città portuali, e quindi noi, cercando di mostrare nelle piazze le persone che per prima accoglieranno questi ragazzi, il tipo di vita che sono costretti a sostenere, probabilmente capiranno il motivo per cui stanno continuando il viaggio. Poi alla fine si arriverà a Bruxelles, appunto perché meta istituzionale in quanto sede del Parlamento europeo, anche per mostrare ai politici, ricordare, mostrare quello che questi, effettivamente come vivono questi ragazzi. Road2Bruxelles.com/IT è il sito ufficiale per conoscere l'intero progetto. Grazie davvero Alessandro, buon viaggio, perché insomma siete in strada, quindi giusto così. Ciao, buon sabato. Se mi permette di ringraziare Cortona on the Move e l'UNHCR e il Fai Service hanno permesso possibile questo progetto. Assolutamente. Grazie a te. Ciao. Arrivederci, grazie. Ciao. A voi. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Euro post-it. Festa della musica. Questo weekend torna alla Festa della musica, la grande manifestazione che riunisce tutta l'Europa per festeggiare il solstizio d'estate attraverso la musica. La manifestazione è aperta a musicisti che suonino qualsiasi tipo di musica e raccoglie eventi in diverse città italiane: Torino, Perugia, Todi, L'Aquila, Siracusa, Serrenti. Orchestre di musica classica, feste in spiaggia notturne, reading, rock e canti riempiranno il weekend. Per saperne di più, festadellamusica-europea.it. L'altra Europa. Ciao Gianni, cari amici, cari compagni dal sud d'Italia. It's a pity that I can not together with you today, and therefore my video message to you, but please feel if I would be together with you, Quello che state ascoltando è ormai l'ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, le sue parole di amicizia, di sostegno all'onorevole Gianni Pittella in occasione dell'elezione europea. Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo e ora nominato presidente ad interim in queste settimane, così diciamo di interregno, anche se la definizione non è proprio la più esatta, ma volevamo invitarlo, volevamo parlare con lui per capire cosa sta succedendo in queste ore, in questi giorni, lassù nel palazzo che, di cui tante volte parliamo, dove però ci piace raccontarlo attraverso le persone. Gianni Pittella è qua con noi, ciao e ben ritrovato all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a te. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, una responsabilità che va al di là, credo, della formalità, vero? Quello che, insomma. Tra l'altro perché interviene in una fase particolarmente cruciale e decisiva, perché lunedì mattina guiderò la delegazione del Parlamento europeo con i capigruppo che incontrerà il Presidente Renzi, molti ministri, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente del Senato e della Camera, per preparare l'avvio del semestre europeo di presidenza italiana, e poi perché nella settimana, giovedì e venerdì, ci sarà il Consiglio europeo al quale io parteciperò per un saluto, un intervento a nome del Parlamento europeo, e sarà un Consiglio europeo decisivo perché dovrà designare il nome del candidato alla presidenza della Commissione europea, e lì ci sarà io mi auguro una svolta storica, perché facendo gli scongiuri il Consiglio dovrebbe tener conto dei risultati elettorali in una campagna che per la prima volta ha visto le grandi famiglie politiche europee indicare i candidati alla presidenza della Commissione. Noi abbiamo come socialisti indicato Schulz, i cristiano democratici hanno indicato Juncker, i liberali Verhofstadt, eccetera, e da questa competizione è venuto fuori che la maggioranza relativa. Attenzione, è caduta la linea, adesso cerchiamo di recuperare al volo l'onorevole Gianni Pittella, con cui appunto stiamo chiacchierando. È stato nominato in questi giorni presidente ad interim del Parlamento europeo in attesa delle nomine di cui ci sta appunto parlando Gianni Pittella. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare al volo la telefonata. Questa è la diretta, mi fanno segno di aspettare e di attendere. Attenzione, non ancora. E direi, Filippo, dall'altra parte del vetro, mettiamo intanto l'euro post-it, così diamo le informazioni. Sono le informazioni su quello che succede in Europa, sono iniziative ed eventi che ci piace promuovere. Potete poi ritrovarli tutti sul nostro sito www.radio24.it. Euro post-it. Tirocinio come mediatore europeo a Strasburgo e Bruxelles. Se siete laureati in giurisprudenza, conoscete francese ed inglese e siete in cerca di un'esperienza internazionale, questo tirocinio vi offre una grande possibilità. Il mediatore europeo, l'ente che gestisce i contenziosi che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione Europea, offre a laureati la possibilità di svolgere tirocini dai 4 agli 11-12 mesi presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles. Per gli stagisti è previsto un contributo economico. Per partire il prossimo gennaio è necessario fare domanda entro il 31 agosto. Trovate informazioni e modalità sul sito ombudsman.europa.eu nella sezione Assunzioni. Eccoci qua, abbiamo recuperato la telefonata con Gianni Pittella. Gianni, eccoci. Chiedo scusa, ma sono ad Enna, dove ho ricevuto il premio Federico II, e non dimentico mai il territorio, anche in questo momento, diciamo, in cui esercito funzioni istituzionali. Stavo parlando del Consiglio europeo, che sarà un passaggio decisivo, perché mi senti? Sì, ti sento, siamo qua. Sì, perfetto. Perché il Consiglio europeo deve tener conto dei risultati elettorali. Per la prima volta sono stati candidati delle personalità a nome delle famiglie politiche europee, e c'è stato un candidato, Juncker, che ha avuto una maggioranza relativa. Schulz ha avuto un bellissimo successo, tenendo conto della maggioranza relativa, il Consiglio europeo dovrebbe indicare il nome di Juncker alla presidenza della Commissione europea, e quindi quindi io sarò lì in rappresentanza del Parlamento a richiedere che venga rispettata la volontà dei cittadini. Insomma, l'Europa dei cittadini è stato il grande richiamo in campagna elettorale, e la nomina di Juncker potrebbe garantire veramente questo fatto, secondo te? Cioè, sarà veramente il Parlamento dei cittadini, passo, la Commissione dei cittadini? Passo. Potrebbe essere la svolta, e poi c'è l'altra grande questione che sta ponendo con grande forza e intelligenza il nostro Premier Matteo Renzi, cioè il cambio delle politiche economiche che incidono sulla vita di ogni giorno dei cittadini. Se non si allenta il patto di stabilità, quel numerino famigerato che aleggia il 3%, non si può investire, e se non si investe nei settori strategici dello sviluppo non si danno le risposte a chi cerca lavoro, alla esigenza che ci sia la crescita, che ci sia l'investimento nella cultura, nel capitale umano, nella ricerca, innovazione tecnologica. Quindi questa è l'altra grande questione. Le due questioni principali che ha di fronte l'Europa sono: uno, il recupero di un rapporto più forte e più diretto con i cittadini; due, l'archiviazione delle politiche di austerità e l'apertura di una fase nuova all'insegna della crescita e della creazione di posti di lavoro. Certo. Gianni, ti riporto al territorio, visto che, come ci hai sottolineato prima, è una tua costante quella di essere dentro al palazzo, ma di essere spesso anche nel territorio, ma proprio nella provincia. Gli italiani, secondo te, hanno capito e stanno capendo il valore dell'Europa? C'è stato uno scarto con queste elezioni? Guarda, l'Italia ha salvato l'Europa, possiamo dirlo, possiamo dire che l'Italia, con il suo voto, con la qualità del suo voto, con l'indicazione politica che ha data, chiara, diretta, forte, verso il PD e verso Matteo Renzi, è stata la diga alla deriva antieuropea, nazionalistica e populistica, e quindi l'Italia ancora una volta si dimostra, con il suo popolo, con i suoi cittadini, il motore della integrazione europea. Dobbiamo seguire su questa strada. In bocca al lupo davvero a Gianni Pittella, intanto per questa settimana che sarà intensa e credo anche emozionante. Ci si emoziona ancora dentro ai palazzi quando si fa politica, Gianni? Guardi, se c'è una cosa che mi rende felice a 55 anni, dopo tanti anni di vita politica, è il fatto che la politica non vi abbia mai disumanizzato. Io conservo dentro di me, vivo dentro di me, emozioni, passioni, molte volte anche tristezze e tantissime gioie, e questo è il senso che sono rimasto un uomo, una persona, e la politica non deve mai massacrare quelli che sono i sentimenti più autentici delle persone. Posso dire un'ultima cosa? Ci tengo tantissimo. Martedì prossimo c'è l'anniversario della morte dell'unico italiano che ha rivestito la carica di Presidente del Parlamento Europeo, cosa che rivesto ora io in forma transitoria, ed è il compianto Emilio Colombo. Vorrei esprimere un pensiero riconoscente e affettuoso nei confronti di questa grande personalità italiana. Facciamo con piacere nostro questo pensiero. Grazie davvero Gianni, buon lavoro. Grazie. Big city life, me try forget my pressure knives up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure knives up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Abbiamo parlato dell'Europa delle istituzioni, abbiamo parlato dell'Europa del territorio, e torniamo su quello che è un nostro campo, che è l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, e lo facciamo con un progetto che è un po' un mix di queste grandi istanze, e si chiama Implementering City to City Support for Integration. È promosso da Eurocities, un progetto che si propone di supportare alcune città europee, in particolare dell'Europa centro-orientale e meridionale, per migliorare l'integrazione dei migranti, attingendo alle esperienze di altre città. E non è solo una condivisione di buone pratiche, è qualcosa in più. Di tutto questo ne parliamo con Caterina Sarfatti, che è Project Manager dei progetti europei del gabinetto del sindaco di Milano, proprio perché Milano è una delle metropoli che fa parte di questo network. Buongiorno Caterina, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te. Partiamo proprio da Eurocities, così per inquadrare bene il progetto. Di cosa si tratta? Allora, Eurocities è un'organizzazione europea fondata da città alla fine degli anni Ottanta. Tra l'altro Milano è stata una delle sei città fondatrici, insieme a Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione e Rotterdam. Ed è un'organizzazione che ha lo scopo sostanzialmente di far sentire la voce delle grandi città europee verso le istituzioni europee, quindi verso il Parlamento, la Commissione, il Consiglio. È organizzata in fora di discussione tematici e gruppi di lavoro più specifici. E per esempio, appunto, Milano è vicepresidente del gruppo di lavoro sull'immigrazione e l'integrazione, che fa parte del forum delle politiche sociali di Eurocities, dove partecipano quindicina ventina di città europee. Caterina, ti chiedo adesso un minuto di pazienza, ci fermiamo, lanciamo la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te per capire quali sono i risultati di questa conferenza finale, di questo importante progetto. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia per seguirci su Facebook e su Twitter. Siamo in compagnia di Caterina Sarfatti, project manager dei progetti europei del Comune di Milano. Caterina, grazie per la pazienza. Implementoring, di cosa si tratta? Allora, Implementoring è un progetto appunto europeo che è condotto da Eurocities, questa è l'organizzazione europea, e ha come partenariato un gruppo di città europee che hanno deciso di mettersi insieme per affrontare alcune delle questioni principali che riguardano l'integrazione dei cittadini di origine straniera. E l'implementoring nasce dalla crasi di due parole inglese, implementing e mentoring, perché le città sono state accoppiate per partnership con una città che voleva implementare delle attività particolari e un'altra città che faceva da mentore e quindi da supporto alle attività. E in realtà poi entrambe le città hanno imparato molto da questa esperienza, per cui non è che c'era un maestro e uno studente, ma proprio uno scambio. Un'amicizia, uno scambio, esatto. E politiche di integrazione partendo da quelle che sono iniziative già in essere, quindi ci puoi fare qualche esempio? Su Milano, Milano per esempio ha lavorato sul tema della partecipazione politica e civica dei migranti nella città. E siamo partiti, anche appunto confrontandoci con le altre città europee, da una idea ampia di partecipazione, che insomma non si esaurisse solo con il diritto di voto, che poi, come sapete, a livello nazionale non è previsto dalla legge. E quindi appunto siamo partiti dall'idea che per sostenere la partecipazione ed eventualmente il diritto di voto, quando speriamo ci sarà, bisogna partire dal lavorare con i giovani, dal lavorare nelle scuole, sull'educazione. Abbiamo fatto una serie di iniziative, per esempio, con le cosiddette seconde generazioni, che poi non amano farsi chiamare così giustamente perché sono figli di immigrati e non sono seconde generazioni a niente. E abbiamo lavorato con un gruppo di questi ragazzi per fare, per esempio, un festival ogni anno sulle seconde generazioni, in cui siamo andati nelle scuole e anche abbiamo sostenuto concerti, attività culturali che parlassero di cosa vuol dire oggi in Italia essere nato in Italia, aver studiato in Italia, essere totalmente italiano ma non avere la cittadinanza. E vi siete ispirati, questo è un po' un progetto pilota che so che insomma ha catturato l'interesse di altre città, voi invece vi siete ispirati a idee provenienti da altre metropoli? Ma sul festival ti dirò la verità, no, nel senso che sul festival è proprio venuta un'idea che è venuta all'amministrazione nel confronto con il network delle seconde generazioni, portandola all'interno del progetto europeo, altre città come per esempio Tampere o Oslo, con cui abbiamo lavorato, si sono ispirate a questa pratica e hanno intenzione di riprodurla insomma nelle proprie città. Quello che è stato utile nel confronto è avere un punto di vista esterno a quello che stavamo facendo, che quando si è nel tran tran quotidiano poche volte si ragiona poi sulle pratiche che si stanno mettendo in campo e insomma il confronto con altre altre municipalità, è stato utile a riflettere su quello che stavamo facendo e a farlo meglio, insomma. Eurocities.eu è il sito dove poter trovare tutte le informazioni. Tra l'altro, dal progetto sono nati 4 documenti, dei toolkit, documenti anche molto pratici, perché queste indicazioni, queste idee, questi progetti vengono raccontati, vengono spiegati e possono diventare materiale per altre città, giusto? Esatto, giustissimo. Sono fatte apposta per i decisori politici, come vengono chiamati in gergo, uh-huh. e ovviamente è compito poi di delle persone che hanno partecipato al progetto diffonderle e dovrebbero essere appunto utili a migliorare la qualità delle proprie politiche, delle proprie pratiche. Grazie davvero Caterina, complimenti per questo bel lavoro a te e a tutto il team che appunto ha partecipato. Ciao e buon sabato. Grazie a voi, ciao, grazie. Europost-it. Un aiuto per lanciare le vostre start-up. Avete un progetto di impresa nel settore della cultura e dell'industria creativa? Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale può aiutarvi. Infatti, grazie al fondo, è stato realizzato il progetto 3C for Incubators, Culture, Creativity and Clusters for Incubators, che è in cerca di 8 progetti di impresa con sede legale o operativa in Regione Emilia-Romagna, per assisterli con un percorso di supporto e networking internazionale per 4 mesi attraverso formazione, mentorship e partecipazione ad eventi. Volete leggere il bando? Andate su emiliaromagnastartup.it. Per partecipare c'è tempo fino al 30 giugno. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Con Johnny Cash che canta "Non c'è tomba per seppellirmi", che entriamo in un argomento che è centrale per l'Europa di oggi, che parte dall'Europa di ieri, da quell'Europa che 100 anni fa ha conosciuto la tragedia del primo conflitto mondiale. E in queste settimane di celebrazioni c'è un progetto molto importante lanciato dalla Commissione Europea già da diverso tempo, che ha varie costole, però in particolare c'è stata questa iniziativa legata al centenario della Prima Guerra Mondiale. Stiamo parlando di Europeana, che è un progetto europeo che si propone di mettere in comune e conservare i contributi di biblioteche, cineteche, cercando di digitalizzare il più possibile per rendere questa memoria sempre più accessibile, sempre più condivisibile. E tra tutto questo c'era anche Europeana 1914, lineetta 1918.eu, questo è il sito, un progetto importante che ha visto il coinvolgimento di diverse biblioteche, di tante istituzioni in occasione del centenario. Di tutto questo ne parliamo con Piero Metelli, che è il responsabile del progetto Europeana Collection per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ciao Piero, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Un lavoro che si è concluso proprio in queste ore, credo la Comunità Europea ha finanziato 3 grandi progetti europei dedicati alla raccolta di testimonianze e uno di questi progetti vi ha visto proprio come grandi protagoniste. Ci vuoi sintetizzare tu il lavoro che è stato fatto? Beh, è un progetto, sì, volentieri, cerco di farlo rapidamente. È un progetto, diciamo, che è stato di durata triennale, che si è concluso proprio recentemente, diciamo nel maggio di quest'anno, e che ha visto la partecipazione di tutte le più grandi biblioteche nazionali europee, di paesi impegnati su parti opposte del conflitto, no? Quindi in qualche modo ha un significato anche questo, perché vuole recuperare questa unità europea, questa tradizione comune, questo sentire comune, indipendentemente da questa terribile, drammatica vicenda storica. Quindi, senza fare un elenco, ma per dire, c'era oltre alla Biblioteca Nazionale di Firenze, quella di Roma, l'ICCU, della Biblioteca Nazionale di Francia, di Austria, della Serbia, del Belgio e così via, insomma dei più importanti paesi europei. Europeana, il grande progetto aveva di fatto tre direzioni: uno di una raccolta di testimonianze delle persone attraverso la campagna di raccolta online di lettere, diari, tutto ciò che era reperto lo si poteva. E anche altro, sì, ma soprattutto c'era questa grande idea anche di. In fondo è un evento lontano, ma non così lontano da non mantenere nelle famiglie, per esempio, testimonianze, cose private, sì, di raccogliere. Iniziativa che ha avuto successo, in tantissimi hanno mandato tracce della propria memoria di famiglia legata alla prima guerra mondiale. Le cineteche, poi le raccolte nazionali. Raccolte nazionali che vi hanno portato a trovare, cosa? Siamo fuori da questo discorso, perché questo ha interessato Europeana Gatwick, mi pare si chiama, che si è occupata appunto delle raccolte filmate. Certo. Il progetto a cui abbiamo partecipato noi aveva come obiettivo peraltro raggiunto, anzi superato, quella della messa a disposizione libera attraverso il portale Europeana di circa 400.000 documenti relativi alla Seconda Guerra Mondiale. Ci puoi fare qualche esempio di questi documenti? Beh, sai, hanno contribuito istituzioni diverse, quindi per documento qui si deve intendere una cartolina e un documento, un libro di 1000 pagine e un documento. Certo. Quindi, voglio dire, non si possono fare pesi. I documenti essenzialmente, per quello che riguarda la Biblioteca Nazionale, sono fondamentalmente opuscoli, libri, materiali grafici, giornali. Diciamo così che l'occhio che abbiamo cercato di avere noi in tutto questo tempo, in cui è stato anche faticoso e difficile trovare, poi se possiamo dire due parole su questo, dimmi tu oppure no, è stato quello, cioè di mettere più l'attenzione più che sulle vicende, diciamo sull'evoluzione militare o comunque storica del conflitto, quello sulla vita sociale e delle persone, no? Che fossero i soldati al fronte, la vita diciamo vissuta delle persone, che fossero i soldati al fronte in trincea o le famiglie rimaste a casa, le donne, le mogli, i figli, gli orfani, i comitati civici. Prima hai citato le cartoline, circolarono 3 miliardi di cartoline. Questo è un dato che abbiamo ricavato dall'ufficio storico dell'esercito, che sostiene, so che altrove sono dati addirittura superiori, che nel periodo del conflitto circolarono circa 3 miliardi di cartoline, perché la cartolina è stata innanzitutto la guerra, forse per l'Italia, a differenza degli altri paesi, è stata la Grande Guerra, un evento tragico, sì, ma anche il primo grande momento in cui l'Italia si è trovata insieme come nazione. No? Certo, certo. E quindi la cartolina, in un'epoca in cui tra l'altro l'alfabetizzazione era estremamente, era molto bassa, era un modo perché i soldati scrivessero, si facessero scrivere da altri che sapevano scrivere, era l'unico modo in cui c'era un momento di vita privata, diciamo così, del soldato. E quindi una ricostruzione della storia attraverso anche queste fonti minori è importante. Tra l'altro la cartolina c'era questo doppio aspetto, no? C'era da una parte il messaggio, come dire, privato, sociale, diciamo, e poi c'era. Ecco, sì, perché la foto era comunque. Piero, scusa, ti chiedo un minuto di pazienza, le informazioni del traffico, poi torniamo immediatamente da te con un'ultima domanda, cioè capire tutto ciò, visto che è accessibile al pubblico, dove e come lo si può vedere. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Piero Metelli, responsabile del progetto Europeana Collection per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E Piero, tutti questi documenti sono accessibili al pubblico dove e come? Questa è la cosa fondamentale. Tutti questi documenti, dunque, sono accessibili naturalmente attraverso il portale Europeana e sono accessibili poi quindi anche attraverso il sito web della Biblioteca Nazionale e attraverso il catalogo online del nostro catalogo online della Biblioteca Nazionale, dove nel record bibliografico che descrive questi documenti c'è poi l'icona copia digitale, uno ci clicca e si legge il full text Perfetto. Europeana 1914, Linetta 1918, punto eo, il sito, il primo sito, oppure bncf.firenze.sbn.it, link che abbiamo già pubblicato sulle nostre coordinate internet, Facebook e Twitter. Grazie davvero Piero, complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Ciao. Ciao. L'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità e l'Europa che trova nella cultura una colonna importante del proprio percorso, è quello che da sempre diciamo qui all'Altra Europa. E proprio di percorso si parla ora, perché in queste ore si sta svolgendo l'inaugurazione della Via Francigena Toscana, e con la presentazione dell'intero tracciato. Sappiamo che la Via Francigena è uno dei grandi percorsi voluta anche dal Consiglio d'Europa, e con noi c'è Massimo Tedeschi, che è presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. Cosa rappresenta la Via Francigena oggi per l'Europa? La Via Francigena, la cui definizione esatta è itinerario culturale del Consiglio d'Europa, rappresenta, a mio modo di vedere, una grande possibilità di conoscenza dell'Europa innanzitutto, di percorrenza di tutti i bellissimi territori dell'Europa e di conoscenza delle persone, dei cittadini. Una volta si diceva fatta l'Italia, ci sono da fare gli italiani. Ecco, un pochino fatta l'Europa ci sono da fare gli europei, e penso che la rete degli itinerari culturali, in particolare la Via Francigena da Canterbury a Roma alla Puglia, è un itinerario che ci consente di fare questo. Quindi storia, cultura, ma anche ecoturismo. Uh-huh. E appunto da Canterbury a Roma, e voi oggi state festeggiando l'inaugurazione di questo pezzo toscano. Cosa vuol dire inaugurare un tratto della Via Francigena? Sì. Allora, la Via Francigena da Canterbury a Roma è lunga 1800 chilometri. Sì. Se ci aggiungiamo poi il pezzo da Roma a Santa Maria di Leuca per l'imbarco verso la Terra Santa, sono altri 700, quindi è come un asse di 2500 chilometri. Attraversa 18 regioni, dal Kent, dalla contea del Kent in Inghilterra, giù, Francia, Svizzera, Italia, appunto fino alla Puglia. Ecco, di queste 18 regioni, oggi la Toscana, che ha circa 400 chilometri, quindi insomma diciamo 15-20% dell'intera via, l'ha inaugurata. Cosa vuol dire? È una domanda, una curiosità legittima. Vuol dire che la Toscana in 5 anni, dal 2009 al 2014, ha fatto un investimento di 16 milioni di euro, e oggi lei entra al passo della Cisa, al nord, e arriva fino a Radicofani in un sentiero tutto in sicurezza, tutto segnalato, possibilità di alloggio, di informarsi, di ristorazione e quant'altro. Quindi lei in totale sicurezza e tranquillità oggi può fare i 400 chilometri. Anche altrove, però in un modo così strutturato e sistematico, per ora l'ha fatto solo la Regione Toscana. E oggi, con legittimo orgoglio toscano, io lo dico da emiliano come si sente, con legittimo orgoglio toscano, i toscani stanno facendo il giro delle mura di Lucca, e ogni 300 metri c'è illustrata una delle 15 tappe toscane. Mm-hmm. Quindi c'è da dare veramente merito al presidente Rossi e a tutto il suo staff e a tutte le amministrazioni e le associazioni toscane. 15 tappe appunto per fare circa 400 chilometri, un paio di settimane di cammino, questo è... Sì. Sono 15 tappe, quindi lei diciamo mediamente parliamo di 20 chilometri al giorno, anche meno, 17, poi dopo naturalmente i super allenati ne fanno anche 25, Io per esempio più di 10 non saprei farlo, facciamo una media, insomma, ecco. Quindi insomma, da Canterbury a Roma più il tratto fino alla Puglia si può veramente fare questo camminare lungo questo percorso, che è un asse europeo, che è uno dei, sono una ventina mi sembra gli itinerari culturali promossi dal Consiglio d'Europa. È importante sottolineare che diventa itinerario culturale del Consiglio d'Europa, soddisfacendo determinati requisiti. Uno di questi è la internazionalità, quindi io non posso in Emilia svegliarmi il mattino e dire a casa mia faccio un itinerario del Consiglio d'Europa, chiaramente devo avere questo elemento. E poi ci vuole una motivazione forte, che però non è necessariamente di carattere, come dire, di pellegrinaggio. C'è per esempio l'itinerario di Mozart. Tutte le città dove Mozart ha soggiornato si sono messe insieme e hanno fatto un itinerario. Questo oggi sono, ne vado a memoria, 26 in tutta Europa, in tutto il, parliamo del Consiglio d'Europa, cioè certo. I 47, sì, sì, sì. I 27 oltre l'Unione, esatto, i 28 stati membri più gli altri 20, insomma, ecco, sono un totale di 47. Allora, le coordinate anche qui, www.coe.it è il sito del Consiglio d'Europa, oppure www.viefrancigene.org. Grazie davvero a Massimo Tedeschi, presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, buona camminata. Grazie a lei. Questa è l'altra Europa, vi ricordo, radio24.it, il nostro sito da cui poter riascoltare la puntata e tutti anche gli europossit che abbiamo segnalato. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Nicolò Rossoni oggi in assistenza e Filippo Laureggi invece alla parte tecnica. E l'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.